La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:30, primi 19 secondi, qui in diretta da Milano in questo martedì 22 novembre 2016. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto diretto in podcast, come sempre. L'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Il numero per intervenire è 800 24 00 24, e le opinioni con gli sms 349 238 6666. La puntata ha un tema che è relativa ai lavoratori delle corti più anziane, e la domanda che vi faccio, se volete farci il piacere di intervenire, è questa: chiamateci per dirci se siete lavoratori sopra i 55 anni, cioè nella fascia che dai 55 anni aspetta di maturare i requisiti per la pensione. E questo siete, se siete lavoratori dipendenti, quindi. Ho capito, sì, c'è la legge di bilancio in arrivo con i prepensionamenti a 63 anni, ma sapete che altrimenti sono 66 anni e 7 mesi i requisiti attuali. Ma detto questo, la domanda è: nell'azienda di cui siete dipendenti, collaboratori, eccetera, per i lavoratori della corte più avanzata, l'azienda ha pensato e messo in atto delle modalità organizzative per lo svolgimento delle vostre mansioni che tengono conto anche della vostra età? Naturalmente il problema è diverso a seconda delle aziende, a seconda delle mansioni, eccetera, eccetera. Però quello che ci interessa capire è se questo tema, nella vostra esperienza, esiste nell'azienda dove lavorate. Naturalmente testimonianza anche ben accetta da parte di manager e non solo dipendenti che non siano manager, e da professionisti. Perché questa domanda? Perché, come accentuato anche, e lo sapete, dagli effetti del Jobs Act più decontribuzione, noi in questi anni di Jobs Act e decontribuzione abbiamo avuto un effetto di occupazione aggiuntiva concentrata soprattutto nelle fasce over 50, come se non bastasse da solo l'orizzonte spostato in avanti dalla legge Fornero per la pensione e l'invecchiamento progressivo della popolazione italiana. Ci sono questi tre fattori che lavorano insieme, e il fatto che con la decontribuzione così elevata, che sapete dall'anno prossimo si azzera rispetto al decalage che c'era già stato anche quest'anno, tranne che per i contratti a tutele crescenti e per i contratti di apprendistato, ma solo al sud, perché lì sarà integrale l'anno prossimo, per il resto d'Italia non c'è più. Ma questo effetto, cioè degli occupati aggiuntivi over 50 anni, è stato dovuto al fatto che finché il numero di disoccupati è molto elevato, le imprese hanno preferito pescare nuovi contratti nella, chiamiamolo così col vecchio termine marxista, l'esercito di riserva dei cassi integrati e disoccupati, che però erano già formati rispetto ai giovani da formare una volta solo assunti in azienda, perché come è noto il nostro percorso formativo non dà skills che sono quelle richieste poi in azienda, bisogna formarle in azienda. E allora le aziende hanno approfittato in questi anni soprattutto di della decontribuzione per pescare manodopera e dipendenti già formati. Però questo aspetto crea dei problemi non solo per i lavoratori, ma lo crea anche per le aziende, perché come ovvio bisogna mettere mano a una valutazione dei processi organizzativi, delle valutazioni dei rischi, che diventano diversi ovviamente con dipendenti, collaboratori, professionisti che diventano più anziani nel tempo e che, vista la struttura della nostra curva demografica, rischiano di diventare più anziani comunque anche con i prepensionamenti, ma in maniera strutturale negli anni di fronte a noi. Ecco, il tema della puntata è proprio questo, quindi se volete darci una mano a capire come vivete in azienda nel vostro lavoro questo tema, chiamateci 800 24 00 24, anche solo per dire: no, non capita niente, noi facciamo esattamente le stesse cose dei giovani appena assunti. Detto questo, però, è un problema, ecco, ed è un problema per me il carico di lavoro, ma anche un problema per quello che poi sono in grado davvero di dare. Quindi chiamateci al numero 800 24 00 24. Però tentiamo di affrontare questa trasmissione come a me non era mai capitato di poter immaginare di fare, perché solo recentemente, per segnalazione di un amico, mi sono imbattuto in un'iniziativa che aziende e associazioni del terzo settore hanno messo in piedi esattamente per focalizzare questo tema, cioè cosa significa per le imprese doversi confrontare con una situazione di collaboratori dipendenti di età significativamente più avanzata dei 2 decenni fa, 15 anni fa, quando magari i processi organizzativi e gestionali sono stati messi a punto. È ovvio che variano sempre nel tempo, però questa novità, ecco, la scoperta è stata di apprendere, almeno per me, non lo sapevo, ammetto la mia ignoranza, che esiste una piattaforma che si chiama Active Aging Academy, quindi un luogo di riflessione, un forum, una piattaforma che aggrega iniziative diverse, che fa proprio del focus della più avanzata età di chi lavora un terreno di confronto, di apprestamento di indagini e ricerche per fornire strumenti poi alle imprese, ai sindacati, ai laboratori, a tutti coloro che stanno sul mercato del lavoro per capire come affrontare meglio questo che è un problema di una società che cambia, utilizzando molto di più quelli che un tempo erano anziani e che ora restano lavoratori attivi. Allora, abbiamo due ospiti, il primo è Giambattista Rosa, che è un ex dirigente proprio di risorse umane, del personale, come si diceva con la vecchia dizione, oggi si chiama Human Resource, e lo è stato in diverse aziende, in Pirelli, Nestlé, Italcemente, quindi ha formato la sua esperienza professionale nel tempo in grandi aziende multinazionali italiane e straniere, che è proprio il presidente di questa Academy. Grazie di essere con noi, Giambattista Rosa. Grazie Oscar, buongiorno a tutti. E poi abbiamo il Managing Director di Protiviti SRL, che, come vedremo, mette a punto delle ricerche in termini organizzativi di valutazione di qual è l'insieme dei rischi, delle problematiche a cui le imprese si trovano esposti e che devono affrontare responsabilmente nel loro stesso interesse, oltre che quello dei loro collaboratori dipendenti, per evitare problemi, per tenere conto di nuove medie di produttività e così via. Ed è proprio la Protiviti che fa questo tipo di ricerche. Marco Perrone, grazie di essere con noi. Grazie a lei dottore, buongiorno a lei, buongiorno Giambattista e ovviamente a tutti gli ascoltatori. Allora Rosa, ci spiega questa iniziativa, come nasce, quando nasce, che cosa fa, perché molti, immagino anche i nostri ascoltatori, non ne sapevano nulla. L'iniziativa nasce proprio dalla consapevolezza, io ho lavorato quasi 30 anni nelle direzioni del personale, che c'è una generazione perduta, che è quella degli ultra 55 anni, che finora era considerata, io per primo quando ero dentro, semplicemente l'oggetto con cui risolvere tutti i problemi di ristrutturazione aziendale, perché col sistema di ammortizzatori sociali che conosci benissimo e che sono in vigore fino a fine di quest'anno, ma dall'anno prossimo cambia tutto. Tutte le volte che c'era da fare una ristrutturazione si ricorreva sostanzialmente, chiamiamolo così, al prepensionamento. Certo. Per cui sopra i 60 anni nelle aziende medie, medio grandi e grandi, praticamente in azienda non c'era nessuno, tranne i vertici che come sempre vivono di regole proprie. E già a 55-56 anni le persone cominciavano a essere dei dead man walking, nel senso che si sapeva che avevano un ciclo di vita aziendale ridotto, smetti di fare formazione, smetti di fare qualsiasi manutenzione e retribuzione, con le ovvie eccezioni ovviamente, e diventano poi, per accordo col sindacato, il modo più dolce di risolvere qualsiasi problema di efficientamento, di riduzione dei costi. Adesso cosa succede? Abbastanza di colpo, che ne dica Tito Boeri e tutti gli altri che ogni tanto sembrano illudere che si possa continuare a pensare di pensionarsi prima dei 66, 68, 70 anni, che è l'età target dell'Unione Europea. La vita lavorativa di un 55enne in azienda non è più dei 3-4 anni in attesa di finire in un percorso d'uscita, ma diventa di 12 anni. E oltretutto questa è la popolazione più numerosa in azienda, perché sono i famosi baby boomers assunti negli anni 80, per cui diciamo il grosso, il corpaccione delle aziende che si figurano ancora popolate di quarantenni, giovani ambiziosi e di giovani laureati scalpitanti, sarà invece composta da risorse senior. che per fortuna sono senior di età, ma d'altro canto molto più giovanili di testa, stanno meglio fisicamente, eccetera eccetera, hanno un potenziale, cioè, per cui tramutare in risorse questa generazione, che finora veniva vista solo come un peso, come un costo, perché chiaramente costano di più, sono considerati, in parte sono diciamo refrattari a sviluppare nuove competenze eccetera, è un po' la scommessa che l'Academy è nata per unire, ormai sono una ventina tra le più grandi aziende italiane che sviluppano best practice, discutono, provano a capire come va cambiata l'organizzazione, come vanno cambiati i processi gestionali, come si anticipa il futuro, perché cosa succede adesso? Per 4, 5, 6 anni, finiti questi ultimi colpi di coda, non uscirà quasi nessuno per prepensionamento, perché si passa improvvisamente dai 60-62 anni ai 66, che diventeranno 67-68. Dopo usciranno valanghe di persone ogni anno. Se le aziende non guardano un po' avanti, c'è ad esempio un rapporto Union Camere che, per quanto la cosa possa sorprendere molti, dice che già nel 2020 non ci saranno abbastanza laureati in Italia, neolaureati, per i fabbisogni delle aziende italiane. Per cui si rischia di andare da un blocco delle assunzioni, perché il turnover sembra fermarsi, a poi un'esigenza di inserimenti massicci, non ci saranno più le persone. E quindi bisogna attrezzarsi su molti fronti, e per fortuna abbiamo trovato un gruppo di aziende assolutamente sensibili al tema e disposte ad anticipare un po' il futuro. Questa, la prima domanda che faccio è, visto che stiamo parlando di aziende che insistono settori più vari e diversi, cioè ci abbiamo grandi gruppi dell'industria, gruppi dell'alimentare, del settore farmaceutico, dei servizi, grandi municipalizzate italiane, in questa piattaforma che avete messo in piedi. La mia domanda è, oltre a iniziative all'interno delle aziende per porsi il problema e per capire all'estero come funziona, per importare delle buone pratiche e così via, qual è il livello fino a questo momento di sensibilità, consapevolezza, coinvolgimento dei grandi sindacati su un tema come questo? I sindacati europei hanno fatto recentemente, la ATUC, un documento che invita i sindacati di tutti i paesi dell'Unione Europea a mettere il tema dell'invecchiamento e delle aging all'interno delle piattaforme aziendali. Noi abbiamo parlato con esponenti sindacali che sono abbastanza aperti, conoscono il problema, francamente non sono la realtà forse più proattiva nel fornire soluzioni. Ma tu pensa al pubblico. Un dato che mi ha veramente sorpreso, anche se poi un po' si sa, i dipendenti pubblici, che sono circa 3 milioni, un terzo ha più di 55 anni, che vuol poi dire che ci sarà un milione di dipendenti, esatto, pubblici che si pensiona fra 7-8 anni. Ad esempio, noi abbiamo 150.000 bancari in esubero. Non si può costruire con l'aiuto delle strutture pubbliche, eccetera, un percorso di riformazione, di orientamento, in modo che non dobbiamo poi fare dei concorsi alla Viva il Parroco per sostituire di colpo le persone nei tribunali, al catasto, nelle regioni, e cercare di prendere queste persone, 45enni, 50enni, che lavorano in banca, che hanno 20 anni di vita professionale davanti. La regia pubblica manca, non tutta, ad esempio noi faremo il 28 un convegno in Regione Lombardia sugli aspetti di salute e sicurezza del lavoro, la Regione Lombardia ci ospita, è sensibile al tema, quindi qualcosa comincia a muoversi, ma il tema è veramente molto molto strategico. Io ricordo a tutti che naturalmente l'accelerazione dell'età media dei dipendenti, quasi 3 milioni e 2, del settore pubblico in Italia è dovuta poi in questi ultimi 5 anni a un effetto concomitante molto potente dello stop al turnover, che è diventato poi una sostituzione al turnover solo del 25%. Come linea generale rispetto ai pensionati anno per anno. Questa, insieme al blocco dei contratti, sono state le due lame della forbice che hanno stoppato in termini reali e iniziato a far diminuire anche il costo totale delle retribuzioni pubbliche sul bilancio dello Stato. Questa componente è praticamente l'unica, al di là del taglio degli investimenti, in cui c'è stata una diminuzione in termini reali, dopo uno stop di un costo che da decenni saliva sempre su, e grazie allo stop degli aumenti contrattuali, adesso vedremo come va la vicenda del 2017 dei nuovi contratti nel settore pubblico, è anche sensibilmente diminuita quella forbice per cui, a parità di mansioni, la retribuzione media pubblica era molto più elevata di quella del settore privato. A parità di mansioni eravamo arrivati a 1,6-1,7 per via di decenni di andamenti divergenti degli aumenti contrattuali rispetto al settore privato. Allora chiedo a Marco Perrone, che cosa significa in termini di valutazione dei modelli di rischio? Rischio sembra che lo si consideri una potenzialità solo negativa per il fatto di avere a che fare con dipendenti e collaboratori più anziani. Bisognerebbe spiegare che il rischio è la valutazione di tutti i fattori di fronte ai quali un'impresa finanziaria, di tutti gli input di produzione, processi organizzativi, degli intangible e così via, serve a evitare in realtà di andare a regimi subottimali. Non è il rischio nel senso che sono i rischi, diventa i dipendenti da maneggiare come se fossero esplosivi. Però una volta spiegato questo, le imprese italiane in media hanno davvero adottato, stanno adottando, stanno capendo modelli di valutazione del rischio? Voi in concreto cosa fate? Allora, innanzitutto buonasera ancora. Allora, innanzitutto Protivity è una società di consulenza direzionale presente a livello mondiale, quindi noi i nostri approcci, le nostre metodologie di fatto le stressiamo su scala mondiale, quindi cerchiamo di andare a proporre dei metodi e degli approcci che vadano da una parte ad analizzare gli impatti che i rischi possono avere sulle aziende e dall'altra parte proporre anche delle attività di mitigazione di questi rischi. Tendenzialmente l'approccio che prediligiamo, in cui ci sentiamo anche un pochino più forti, è quello di partire dai rischi più alti, cioè avere un approccio strategico. Quindi tendenzialmente andiamo a prendere quelli che sono gli obiettivi di un piano magari strategico, un piano industriale di un'azienda e andiamo a lavorare su quei tipi di rischi. Ovviamente se dovesse dire un paio di paesi che su questo tema sono più avanti rispetto a noi, sicuramente quelle di matrice anglosassone, quindi ovviamente dove c'è una cultura del rischio sicuramente superiore a quella che è in Italia, che nel corso degli ultimi anni, devo essere onesto, sta iniziando a ragionare sempre più in ottica di rischio, ma che indubbiamente è più indietro rispetto appunto a una matrice più anglosassone. Basti dire una sola cosa: malgrado, cioè tutti avranno capito che per via del tornado del sistema del credito bancario, sulle tecniche di valutazione del rischio finanziario, su come si comporta, come ottimizzare la rotazione del circolante per il credito, sì, lì passi in avanti sono stati un po' dovuti e obbligati, vista la moria di imprese, però se andiamo a vedere altri indicatori, per esempio la propensione media per il settore delle imprese italiane a mettere in atto tutele assicurative e controassicurative, lì in termini di comparazione internazionale restiamo purtroppo molto indietro, cioè la cultura dell'impresa italiana in questo, per via anche delle classi dimensionali e quindi della microimpresa che la fa da dominatrice, beh, sono purtroppo per noi abbastanza arretrate. Mi scuso l'inciso, ma è sempre per far capire che stiamo parlando di valutazione del rischio a 360 gradi, perché sennò chi ci ascolta dice: beh, che state dicendo che i dipendenti adesso diventano il rischio, da una parte li obbligati a lavorare di più e dall'altra diventano un rischio per le imprese. No, si tratta di ottimizzare al meglio la valutazione di cosa può significare, ecco, per l'impresa questo. E quindi qualche esempio in concreto per far capire ai nostri ascoltatori, però mi dà la risposta tra un minuto perché adesso abbiamo il traffico, le informazioni di servizio. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta la versione di Oscar. Allora, eccoci qui tornati in diretta ad affrontare un tema che è quello di un sistema di lavoro in cui l'età media dei dipendenti, dei cooperatori, dei collaboratori, dei professionisti è sempre più avanzata. In un paese che conoscete, il suo tasso di disoccupazione demografica resta larghissimamente al di sotto dell'equilibrio intergenerazionale, un paese che si avvia al 2035 ad avere come coorte più significativa dal punto di vista quantitativo sul totale della popolazione quella che starà tra i 60 e i 70 anni, per essere chiari. Quindi è un mondo completamente diverso. Stiamo parlando di questa iniziativa, l'Active Aging Academy, messa insieme da imprese e terzo settore per far capire alle aziende che bisogna cambiare i modelli organizzativi, gestionali, bisogna capire come, che premi particolari nei contratti sul premio di merito prevedere per i lavoratori senior, che tipo di organizzazione del lavoro che tenga conto anche dell'invecchiamento cognitivo, non solo quello naturalmente del deperimento delle capacità fisiche dei lavoratori man mano che si invecchia, sia pur invecchiando con una efficienza fisico-psichica che è molto migliore, molto migliorata per tutti i fattori, da quelli della sanità alla qualità della vita rispetto a quella di generazioni precedenti. E stavamo parlando con Marco Perrone, che per questa grande società di consulenza internazionale del Protiviti ci stava dicendo in concreto che cosa dai paesi che su questo sono più avanzati, hanno prima iniziato a porsi questo problema, i paesi anglosassoni, si può immaginare di portare nella realtà del lavoro delle imprese italiane. Perrone. Allora, prima stavamo parlando appunto di rischi che possono afferire al tema dell'invecchiamento. Noi abbiamo ovviamente creato un aging risk model, quindi abbiamo un po' cercato di clusterizzare i principali rischi all'interno di voci come tema competenze, temi di produzione, costo del lavoro, salute e sicurezza, la cultura, il clima aziendale, anche temi se vogliamo di compliance e di adeguamento normativo sostanzialmente. Andando nel pratico, cos'è che vediamo attraverso rischi che possono mettere a repentaglio gli obiettivi di medio e lungo periodo, o comunque non dico la sopravvivenza stessa perché dell'azienda magari è un po' troppo forte, però sicuramente l'invecchiamento, che in alcune parti può essere anche colto come un beneficio, un'opportunità, no? Mi immagino delle direzioni legali, ovviamente la seniority più alta è, più può essere il contributo che queste risorse possono dare. Ma a livello generale, torniamo al discorso un po' dei rischi, vediamo temi come la perdita di competenze specifiche, qualora un grosso numero, come prima diceva Giambattista, dovesse fuoriuscire nell'azienda, è chiaro che si rischia di perdere competenze specialistiche e perdita di relazioni strategiche, soprattutto là dove ci sono aziende dove non curano un po' questi passaggi di sapere, se vogliamo. Da un punto di vista tecnologico, magari l'appannamento, tra virgolette, delle competenze, no? Che non, magari non riesce a tenere il passo con l'innovazione, piuttosto che la creazione o la messa a sistema di prodotti e servizi che possono essere caratterizzati da un'obsolescenza. Problemi di sicurezza e inabilità per molte mansioni operative, pensiamo magari a quelle utility che fanno trasporto di risorse, magari pensiamo a dei tranvieri, piuttosto che persone che con un innalzamento dell'età anagrafica possono anche mettere a repentaglio lo svolgimento delle proprie mansioni. Il peggioramento del tasso di infortuni, incrostazione di organigrammi, quindi demotivazione. Ma pensiamo anche magari a, facciamo un esempio l'altro giorno con Giambattista, di quel controller che si trova di sopra, un CFO che ha allungato la sua vita lavorativa, che vede prolungarsi inevitabilmente anche la propria carriera lavorativa, no? Perché magari non si crea un passaggio generazionale. Quindi questo anche portare a compromettere le performance aziendali, no? Ovvero può portare a perdita di clienti o volumi di vendite, perdite in efficienza, ovviamente extra costi dovuti appunto a una produttività calante e anche eventualmente a dei danni reputazionali. Quindi quello che è, come si vede, si parla proprio di una specie di lama che attraversa in orizzontale tutte le questioni di fondo di che cos'è questo fascio di contratti che è un'impresa. Quindi ci vuole una rivoluzione vera dal punto di vista organizzativo e gestionale. Io devo dire che nel ringraziare il presidente Giambattista Rosa, avete un sito su cui chi fosse interessato può approfondire, Giambattista? Sì, è www.activeagingacademy.org, c'è un po' la nostra mission, cosa facciamo, ecco. Le realtà con cui collaboriamo. Io mi auguro, non sono molte imprese si avvicinino alle vostre iniziative, ma quello che penso io è che i sindacati e i lavoratori dovrebbero essere più proattivi nel chiedere modifiche organizzative, eccetera, eccetera, che tengano conto di questo fattore. Il lavoro italiano si trasforma anche e soprattutto perché molti di più in età avanzata dovranno per forza lavorare e bisognerà farlo in modalità ad hoc. Davvero è un punto di fondo.